ragazze, vi aspetto a ballare. L'amore in guarnigione non ti può mancare. Vestido, troppo dell'acquisto mi consolo in complesso sopra e sotto non mi sembri un buon figliolo ho inneggiato il mio rivale ma non so anche questa è da contarsi quando ho inneggiato il mio rivale anche questa è da contarsi Thank you. Thank you. stile e piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento il me del mio decotto. Pazzie! Pazzie, voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi, degli alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore, della regina Isotta. Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni cotta. Che ascolto, e ne morevo con le stelle di sera. Poi me lo chiese, per ottener l'affetto di non so qual crudele. Languiva, sospirava, senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato, prende la libertà. Si fece il voto. Rispetto le desire, ma libre, vostra intesa, figlio libre, vostra intesa. Sì, sì. Thank you. si può morir assi Voglia cresce beltà, l'amor nascente, a far l'indifferente, si seguiti così, finché non viene, e la spiegarsi. E morino, e bene. Dimmi, perché partire, perché parte soldato, hai risoluto? Perché? Perché ho voluto tentar, secondo il mezzo, il mio destino io potea migliorar. La tua persona, la tua vita ci è cara. Io ricomprai il fatale contratto da bel cuore. Voi stessa... naturale opera e d'amore. Thank you. si spiega. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。